bianca scatolina con un nastro profumato. Con sorpresa ho ricevuto stamattina, cuore e mani mentre aprivo mi tremavan sempre più. Il profumo che sentivo, nessun dubbio, eri tu. Cinque confetti, un biglietto, due nomi, una data. Un sogno s'è spezzato, un cuore s'è fermato. Cinque confetti, un biglietto, due nomi, una data. Un'anima ferita, un addio alla vita. Ho atteso da sempre inutilmente d'averti accanto in abito da sposa. Credevo tanto in te sinceramente, perdutamente. E tu, cinque confetti, un biglietto, due nomi, una data. Ma grazie dell'invito, sarà l'ultimo, verrò. Cinque confetti, un biglietto, due nomi, una data. Un'anima ferita, un addio alla vita. Ho atteso da sempre inutilmente d'averti accanto in abito da sposa. Credevo tanto in te sinceramente, perdutamente. E tu, cinque confetti, un biglietto, due nomi, una data. Addio, tanti auguri per la tua felicità.